pezzi di mucco, zia. Ehi, canta, canta. Ehi, beh, dai, che sta portando, beh, dai. Avete la mia, cantate la mia, la portante, oh. Oh, no. Avete lo segnale, dai. Avete lo segnale, dimmi che te da Santiago. Vai la lingua di separata. Vai a Giosso e a Codinira, vai a separata a Giosso, a Codinira. Non si sa che è più muto, tu o Natalino. Ma tu gli attenderai, la verità è, tu gli attenderai un bel. Brucia, brucia. 9:25. Scusa se è poco, 9:25. Quello è il mio segnale. Beh, due, su giocattolo, beh, due, un bel beh, due. Ma quello, il 440 che conoscevo io, ho un altro questo, che è Gusso, con chi sei MC60? Si sentiva? Vuol dire sì? ero qui. Vabbè, dai. Bella canzone italiana. La voce uguale alla mia è Luca. Vuol dire sì? Vabbè, dai. Adesso sì. Thank you. accesa. Non si capisce nulla di quello che sto dicendo perché c'è il televisore acceso. E adesso ti va bene, guarda un po'. Adesso già va bene, ma non è che sia questa grande radio. Comunque già va bene. Scusa, il microfono si adesso. 1, 2, 3. Aspetta, scusa un attimo. Adesso ti piace? Beh, già fuggito sei. Yeah. pagina della legalità, un baluardo dice non è negoziabile. Io ho preso dai giornali quelle parole, quelle telefonate, che mi hanno occupato pesante della politica, e mi auguro che non si voglia delegare questa alla magistratura e che non si voglia nascondere la sedetta sulla parole dette a margine della presentazione della candidatura di Sara Bisamato alle regionali Piemonte, coordinatrice regionale del Movimento, era fino a qualche giorno fa nel tavolo che cercava un accordo con il PD, poi saltato per i ripetuti veti che avevano spinto idea a candidare Gianna Penteneo, un altro scossone dopo quello di Bari, su cui da giorni Renzi accusa Conte di aver lasciato le primarie ma non raggiunto Emiliano, per Calenda dei 5 Stelle solo sciacallaggio. Generale dei carabinieri noto per l'arresto di Notorina è un atto d'amore nei confronti del popolo italiano che voglio continuare a servire, ha detto Sergio De Caprio, questo è il suo nome, che sarà candidato alle prossime europee nella lista Libertà lanciata da Catello De Luna. Hello.